vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 29 novembre, il sole in regione sorto alle 7.17 tramonterà alle 16.40. Domani c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Nuovi campanelli d'allarme per il settore suinicolo che, oltre alla crisi legata alla pandemia da coronavirus, sta subendo i contraccolpi internazionali della peste suina africana. Ne parliamo nel servizio di apertura per tornare ad occuparci del terreno e degli equilibri fondamentali con i suoi corredi di microbi. La vite e i suoi cicli vegetativi sono poi al centro della rubrica del vino per passare in orto ed occuparci della vasta gamma di cavolfiori, verdura oltremodo salutistica. Per i prodotti tipici agroalimentari del Friuli Venezia Giulia è la volta del formaggio asino e poi di un piatto di stagione, le canoce, oggi in una ricetta esclusiva. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Il settore si era appena ripreso da una crisi abbastanza importante e ora di nuovo si sentono sinistri scricchioli per il settore suinicolo anche nella nostra regione. Cosa sta succedendo? Lo chiediamo a Marco Bassi, tecnico dell'Associazione degli Allevatori del Friuli Venezia Giulia e referente per gli allevamenti suini. Stiamo purtroppo vivendo un periodo buio in un'annata non brillante. Il 2020 era iniziato con dei prezzi alti, sostenuti dalla speranza di un'apertura nel mercato cinese. Questi prezzi però poi hanno impattato con la dura realtà del Covid, che ha messo in forte crisi il sistema Horeca, che vuol dire hotel, ristoranti e catering. Il prezzo poi è ripartito a maggio, speravamo in un'ondata un po' più lunga, che oggi invece non vediamo. Ad oggi la quotazione purtroppo è di 1,27 €, la media annuale si pensa che arriverà attorno all'€1,20, quando nelle annate passate eravamo attorno all'€1,40-€1,45. Pensate che il costo di produzione per un allevamento, diciamo, intensivo è di 1,35-1,40 €. E la peste suina ritorna a far paura, cosa sta succedendo? La peste suina, al di là di questo nome che fa un po' paura, è per fortuna un virus che non riguarda l'uomo, purtroppo non esiste ancora un vaccino efficace e quindi l'unica misura che abbiamo sono quelle di prevenzione. Ad oggi in Europa è entrata in 3 land tedeschi, causando la morte di più di 150 cinghiali e questo ha comportato che la Cina, dalla quale era partito questo virus anni fa, ha bloccato immediatamente dal giorno successivo le importazioni di carne e quindi di fatto noi il virus ce l'abbiamo già in Italia, non tanto come appunto virus ma come effetto sul prezzo dell'animale. Abbiamo migliaia di animali tedeschi che vengono esportati, vengono consumati dal mercato europeo. Chiaramente gli allevatori tedeschi sono impauriti sulle prospettive dei prossimi mesi e quindi devono svendere, devono liberare delle capannoni. Questo è un grave rischio, è come se il nostro vicino di casa si divertisse con le bombe a mano e la volta che sbaglia purtroppo fa saltare anche casa nostra. Prospettive a breve e anche a lungo termine? Purtroppo a breve termine sono negative, ci aspettiamo che il prezzo scenda ancora perché c'è una forte incertezza sempre legata al problema Covid. Sono un po' migliori rispetto a queste per il prossimo anno perché la stagione sicuramente favorirà il miglioramento delle condizioni a livello nazionale. Ci aspettiamo quindi un'annata, un 2021 buono. Una mano la può dare il consumo locale e soprattutto anche la macellazione locale? Abbiamo la fortuna che i nostri macellatori e i nostri trasformatori conoscono personalmente gli allevatori, per cui a loro spesso riconoscono un prezzo più equo di quello che è il mercato nazionale, garantendo così un prodotto eccellenza sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista qualitativo. Quello che è il nostro invito è per Natale di fare dei regali che siano gastronomici, utilizzando, sfruttando, andando anche a fare delle domande ai nostri macellatori di fiducia, alle nostre macellerie, perché sicuramente loro ci sanno raccontare qualcosa di più sui maiali che acquistano e quindi sulla qualità che sta dietro a un semplice prezzo. Prezzo che, ricordiamo, non è assolutamente più alto o significativamente più alto di quello che troviamo in una grande distribuzione. Quindi vale la pena spostare semplicemente i consumi anche grazie a certe aziende che si sono attrezzate per le consegne a domicilio. terreno e microbi, quanti sono e quanto ci servono, è il tema che oggi sviluppa Cristina Micheloni per la rubrica del biologico. Facciamo un altro discorso terra-terra, ma questa volta proviamo a metterci vicino anche qualche numero. L'occasione ci viene dal recente webinar tenuto dalla professoressa Manuela Giovannetti dell'Università di Pisa e dal fatto che il 5 dicembre si celebrerà la giornata mondiale del suolo. Allora qualche numero. Nel terreno vive un quarto della biodiversità globale, quindi preservare il suolo e la sua attività microbiologica pesa sulla preservazione della biodiversità molto di più della coltivazione di varietà locali, cosa che in tutti i casi va sostenuta, ma va combinata con queste altre misure. In un cucchiaio di terreno vivono molti più organismi di quanti umani popolino l'intero pianeta. Ogni anno si perde una superficie di terreno fertile pari al Costa Rica, ovvero 50.000 km quadrati. Mettiamo qualche numero anche su chi sono questi simpatici organismi che vivono nel suolo. In un ettaro di terreno in salute, diciamo un terreno di prato, ci sono 1, 1,5, anche 2 tonnellate di batteri, più o meno 2 tonnellate di attinomiceti e da 2 a 5 tonnellate di funghi. Sono in equilibrio fra loro, per cui se ci sono più funghi ci sono meno batteri e viceversa. Proviamo a prendere in mano una manciata di questo terreno, diciamo 100 grammi. Dentro vi troviamo fino a 5.000 organismi fra insetti, acari, anellidi e molluschi, 10.000 protozoi, 500 metri di radici di piante coltivate o piante avventizie, 50 chilometri di ife di funghi e correlati batteri, 10.000 nematodi che non sono per forza patogeni e cattivi, 100 miliardi di batteri e se siamo fortunati anche qualche piccolo mammifero, ma probabilmente quello è scappato quando abbiamo preso in mano la manciata di terreno. Ma l'agricoltura cosa importa a tutto questo? Importa tanto. Ad esempio, possono arrivare da una oculata gestione del terreno, attenta alla biodiversità e all'attività biologica, fino a 200 kg ettaro anno di azoto gratis fissato dalle leguminose. Possono risparmiare fino al 50% di energia, grazie alla migliore lavorabilità data proprio dall'attività microbiologica, che rende più semplice la gestione attraverso le lavorazioni meccaniche. Possiamo ottenere un incremento del 58% della produzione di cibo. Assieme a un paio di altre ben note semplici azioni, tipo meno prodotti animali e meno spreco, ci permetterebbe di sfarmare tutta la popolazione attuale e anche quella a venire. E nulla diciamo, semplicemente perché già detto molte volte, su clima e su quanto il terreno può giovare sia in termini di mitigazione che di adattamento. Bene, allora a ognuno di fare qualcosa. Agli agricoltori di trattare bene la terra, riducendo le lavorazioni, curando la dotazione organica e la diversificazione delle colture attraverso anche la rotazione e l'uso dei sovesci. Insomma, se fate bio andiamo meglio. Ai consumatori di scegliere con discernimento con che cosa riempire il frigo, meno prodotti di origine animale, meno prodotti trasformati e tanto più bio e anche più locale. Ai cittadini più attivi di fare bene la differenziata e magari cominciare pure a fare il compost. Agli amministratori di smetterla di cementificare. E a tutti i pigri di accovacciarsi comodi sul divano e vedere il documentario Kiss the Soil, disponibile sulle usuali piattaforme. A tutti noi un buon 5 dicembre, giornata mondiale del suolo. Il professor Roberto Zironi per la rubrica del vino oggi inizia a parlarci di quella pianta meravigliosa che è la vite. Il ciclo di fruttificazione della vite è biennale. Durante il primo anno, nell'autunno e nell'inverno, la vite si prepara alla messa a frutto, formando delle gemme invernanti. Nel corso dell'inverno, quando la vite si presenta in riposo vegetativo, il viticoltore compie l'operazione di potatura, che consiste nel tagliare i rami che hanno fruttificato e nel distendere nella struttura del vigneto i rami che dovranno fruttificare. Ad un certo punto, prima della primavera, la vite emette un liquido, il pianto. Da lì a un mese avremo il germogliamento delle gemme quando le temperature si manterranno stabilmente sopra i 12 gradi. Questo periodo equivale grosso modo al 20 di marzo per l'Italia meridionale, fino a crescere e arrivare fino al 20 di aprile per quella settentrionale. Oltre al germoglio, dalle gemme si differenziano anche l'infiorescenza a grappolo. La fioritura della vite si ha a norma tra fine aprile e maggio nelle regioni meridionali e da giugno in quelle centro-settentrionali. La fioritura si completa in qualche settimana e la fecondazione dei fiori è favorita dal vento e dagli insetti. Il buon esito della fecondazione, cioè la legagione, è favorita da condizioni climatiche miti, una buona luminosità e presenza di un leggero vento nei giorni di fioritura. Dopo la fecondazione le bacche cominciano il loro accrescimento. Si possono distinguere 4 periodi di sviluppo: periodo erbaceo, invaiatura, maturazione e sovramaturazione. Il periodo erbaceo inizia dopo la legagione e dura alcune settimane. Nei fiori fecondati l'ovario si allunga e comincia a diventare più o meno sferico. L'acino è diviso in due parti che successivamente si differenziano. Quella esterna rimane inalterata, quella interna si sviluppa aumentando di volume. L'aumento di volume dell'acino è dovuto principalmente ad una distensione delle cellule. E le bacche sono verdi, si comportano in maniera simile a un organo erbaceo ed hanno una limitata capacità fotosintetica. Dopo questo primo periodo, la bacca smette di accrescersi, annulla la sua attività fotosintetica e comincia a virare di colore per assumere i connotati caratteristici della varietà. Questa fase di viraggio del colore prende il nome di invaiatura. Sono di stagione, ne abbiamo un'ampia gamma e soprattutto sono oltremodo salutari. Stiamo parlando dei cavolfiori, dei quali ci dice tutto Sara Bosco. Oggi ci occupiamo delle varie tipologie di cavolfiori presenti nei nostri mercati. Quello più diffuso è il cavolfiore bianco. Questo ortaggio ha un buon contenuto in vitamina C, è antiossidante e antinfiammatorio. È un perfetto alleato della salute per combattere i malanni della stagione fredda, oltre a tenere a bada il ritmo cardiaco e la pressione. Troviamo poi il cavolfiore viola, che si presenta compatto e di colore rosso vivo, tranne il gambo e le parti interne che invece restano bianche. Ha il sapore delicato, è di gusto un po' più tenue e morbido rispetto al tradizionale cavolfiore bianco. Ha proprietà simili a quest'ultimo, però possiede più antocianine, carotenoidi, potassio e magnesio. Uno tra i più apprezzati è il cavolfiore verde romanesco, che ha un aspetto geometrico. Possiede anche ottime proprietà per l'organismo. È antianemico, è una buona fonte di vitamina A e di vitamina B. E risulta essere molto apprezzato per la presenza degli antocianati, sostanze dalle proprietà antitumorali. Un'altra tipologia di cavolfiore è quella arancione, che contiene di fatto un maggior livello di beta-carotene, il che significa, dal punto di vista nutrizionale, un maggior apporto di vitamina A. Ha un gusto più amabile e cremoso rispetto alla tipologia bianca. E per concludere questa carrellata bisogna accettare anche il cavolfiore verde, che invece presenta la stessa conformazione di quello bianco, ma con un contenuto in clorofilla maggiore. Il cavolfiore verde è il cugino green, diciamo, del cavolfiore bianco. Come quest'ultimo è ricco di nutrienti preziosi, tra cui minerali, acido folico, vitamina C. La clorofilla, che gli conferisce il colore verde, favorisce inoltre la produzione di emoglobina e quindi può aiutare nella cura dell'anemia. Riassumendo, si può affermare che questo ortaggio ha un contenuto calorico molto basso, contiene molta acqua e fibre che aiutano il transito intestinale e il senso di sazietà, e pochissimi grassi. Inoltre ha molte proprietà benefiche. L'ideale però sarebbe consumarlo crudo affinché possa contenere la maggior quantità di nutrienti utili al nostro organismo. È una questione di accento, si chiama formaggio asino ed è una delle specialità regionali riconosciute. La scheda è di Adriano Del Fabbro. Nella storia della tecnologia alimentare, l'asino è l'unico esempio riuscito di far durare nel tempo un formaggio fresco. I primi documenti risalgono addirittura al 300, il primo preziario ritrovato in cui se ne fa menzione è del 1594. Nel 1603 a San Daniele, il predicatore quaresimale fra Romano da Lodi viene compensato con prosciutti, stoffe e formaggio asino. Alcuni decenni dopo, il poeta Hermes di Colloredo e lo storico Enrico Palladio lo citano specificando l'origine del nome, asino, dal paese di Asio. In molti cartolari notarili carnici di epoca seicentesca spunta la menzione del formaggio asino. In quel millennio aumentano le citazioni dell'asino e del suo originalissimo metodo di preparazione a opera di Luigi Pognicci, Paolo Beorchi Animis e Guglielmo Ghinetti. Il cooperatore valtellinese Ercole Bassi nel 1900 definisce pregiato l'asino di Vito d'Asio assieme al Montasio. Arturo Feruglio nel 1938 propone un breve racconto ironico intitolato Fix e formadi asin. Dall'anno 2000 è inserito nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali del Friuli Venezia Giulia. Ancora oggi si produce nell'alta pianura e nella montagna pordenonese, nulla a che fare comunque con il latte d'asina. L'asino è un formaggio molle o semiduro, grasso, ottenuto da latte di vacca intero, crudo, in una sola monta. Le forme sono cilindriche, del peso di circa 6 kg, con uno scalzo di 15-20 cm e un diametro di 20 cm. Senza crosta, di colore bianco, con occhiatura uniforme. Le forme subiscono la maturazione in una salamoia, la salmuerie, composta di acqua, sale, latte o panna da affioramento, con una formula tramandata da generazioni e conservata in particolari tini di legno dove rimane dai 2 ai 6 mesi. Questa salina pregiata non viene mai completamente sostituita, ma viene curata, aggiungendo di volta in volta, secondo dosi che restano segrete, i vari ingredienti e girata spesso per ossigenarla. Il moto dell'agitazione, a volte, produce lo sfaldamento di qualche formaggella, contribuendo ad aggiungere tipicità alla soluzione. Tale tecnologia consente di ottenere l'asino classico con gusto deciso e struttura compatta. Una variante prevede l'emissione nelle saline per circa 20 giorni del formaggio lavorato a pasta tenera. Si ottiene così l'asino tenero, cremoso e spalmabile. Nella tradizione culinaria friulana l'asino morbido si abbina alla frutta, si utilizza nella mantecatura dei risotti, si spalma su crostoni di pane caldo o accompagnato con fettine di polenta abbrustolita e salumi. Roberto Zottar ci ricorda che questo è il periodo migliore per gustare le canocce, che ci propone anche in una ricetta esclusiva. Pochi giorni fa era Santa Caterina e siamo nel periodo migliore per le canocce. Secondo il detto, per Santa Caterina è meglio una canoccia che una galina. Un paradosso per dire quanto siano grossi e saporiti ora questi crostacei. Sto parlando di cicale di mare o cannocchie o squillamantis, meno conosciute ma più raffinate dei gamberi e forse anche degli scampi, che con l'arrivo della stagione fredda danno il meglio di sé. Per essere sicuri che siano belle fresche quando le comperate, se non sono vive, dovete controllare che siano abbastanza pesanti, perché come le aragoste, meno sono fresche e meno pesano meno saranno buone. La pezzatura e le dimensioni fanno la differenza sul pregio e in ogni caso, come tutti i crostacei, andrebbero cucinate vive. Per pulire le canocchie, sciacquatele in acqua corrente, staccate la testa e praticate 2 tagli laterali con le forbici lungo i lati del corpo, sollevate i mezzi gusci e liberate la polpa. Un marinaio mi ha suggerito il trucco, per facilitare l'estrazione della polpa, di passarle prima in congelatore per un'ora esatta. Volendole cucinare in boreto senza sgusciarle, praticate comunque un taglio lungo la corazza dorsale in modo che la polpa si insaporisca più facilmente in cottura. Per degustare le canocce in purezza, cuocetele al vapore per pochi minuti e conditele con un filo d'olio e una goccia di limone. In alternativa, si possono preparare ottimi sughetti per le paste o zuppe usando anche le teste per un brodo di pesce. Oggi vi voglio raccontare però la ricetta di Michela, chef e patron di un locale a Gorizia, che è un ristorante ma si chiama bar. Michela ha iniziato anni fa a servire spaghetti con il sugo in bianco di boretto de canocce. Pulisce le canocce separando la polpa dal carapace. Fa poi un fondo molto ristretto, tostando in padella i carapaci con olio, spruzzatina di vino e poi acqua a coprire. Cuoce velocemente in olio e aglio i filetti di canoce, bagna con il fondo preparato e poi ci spadella linguini o spaghettoni cotti al dente. Il piatto è già splendido così e ogni anno aspetto i mesi freddi per andare a gustarlo. Ma la tradizione è dinamica ed è sempre in evoluzione. Ultimamente Michela, con un colpo di genio, ha arricchito la ricetta con l'aggiunta di qualche cucchiaio di una crema di finocchio, che prepara cuocendo finocchio con cipolla, porro e acqua. Un pizzico di fior di finocchio e una manciata di pepe completano poi il piatto, che risulta cremoso, profumato e gustosissimo, da abbinare con un calice di vino bianco naturale offerto dal marito Piero. Buon appetito! Come stanno andando le quotazioni sui mercati agricoli? Ce lo dice Amos D'Antoni. Mercato poco attivo e prezzi sostenuti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, e dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 18-18,20 euro il quintale IVA esclusa, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 17,50-18 euro, il frumento tra 19,90-20,20 e la soia tra 42-42,30. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 2,30 euro e la soia di 8,90 euro il quintale. Passando ai bovini da macello, si rileva una situazione stanca nelle quotazioni. Le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto tra 2,10 e 2,40 euro il chilo IVA esclusa e quelle di seconda tra 1,40 e 2,10. Pure il mercato dei vitelli da ristallo conferma il disagio dell'attuale fase di crisi del settore. E l'ultimo andamento rileva i blubelga maschi quotati tra 5,70 e 6,30 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,40 e 4,80, i frisoni tra 1,30 e 1,60 e i bruni tra 1,20 e 1,40. Nel comparto suinicolo si rilevano ancora accenni di pesantezza. Il valore della tonzo di 30 kg franco partenza viene fissato a 2,10 euro il chilo IVA esclusa, i grassi da macello a 1,22. Domanda confermata con quotazioni stabili nel settore caseario e il prezzo del montaggio fresco è compreso tra 6,05 e 6,35 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,20 e 7,50, lo stagionato 12-15 mesi tra 7,90 e 8,30, con marchio di qualità tra 8,90 e 9,30. Il latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia è stato quotato giovedì dalla Commissione Camerale di Pordenone Udine Franco Stalla a 36 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, direi uova oltre i 73 grammi a 17,10 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Livio Stefanuto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Nelle ultime due settimane il tempo in regione è rimasto quasi sempre improntato al bello, con la presenza quasi continua di alta pressione e quindi di tempo stabile. Vediamone un breve riassunto. Lunedì 16 un fronte ha interessato la regione e ha portato precipitazioni da moderate ad abbondanti con neve in montagna oltre i 1500 metri e ha soffiato anche bora forte sulla costa. Nei tre giorni successivi tempo bello, con inversione termica in montagna. Venerdì 20 un altro fronte ha portato precipitazioni deboli o moderate, neve oltre i 1200 metri e bora forte a Trieste, bora che ha portato anche aria fredda. Infatti, se nei primi giorni avevamo temperature nella media del periodo, poi c'è stato un deciso calo e la temperatura media in pianura si è attestata a 3 gradi sotto la media del periodo. Dal 21 di novembre ad oggi abbiamo sempre avuto tempo bello, con inversione termica nelle valli e alla fine anche con la presenza di nubi basse sulla costa in questi ultimi giorni. Complessivamente, la temperatura media dal 14 al 28 novembre è stata di quasi un grado sotto la norma, mentre le minime sono state di quasi 2 gradi e mezzo sotto la media. Infatti, abbiamo avuto molti giorni con temperature minime sotto zero. Nel Pordenonese, in particolare, erano quasi 10 anni che in questo periodo non avevamo così tanti giorni con temperature minime negative. Oggi l'avvicinamento di una depressione fredda dalla Russia fa affluire correnti nord-orientali più fredde e secche. Tra martedì e mercoledì una massa d'aria fredda scenderà dal nord Europa generando una depressione sull'Italia. Lunedì avremo cielo sereno con nebbia al mattino nel Trevisiano. Sulla costa soffrirà bora sostenuta di notte al mattino, moderata nel pomeriggio, poi in attenuazione. Martedì al mattino sarà sereno, poco nuvoloso, con gelate diffuse anche in pianura e burino sulla costa. In giornata aumenterà la nuvolosità e farà piuttosto freddo. Dalla sera non si esclude qualche spolverata di neve in montagna fino a fondovalle, più probabile al confine con il Cadore, mentre sulla costa tornerà a intensificarsi la bora. Mercoledì avremo tempo variabile, con bora forte sulla costa, moderata in pianura. In serata il tempo potrebbe peggiorare, con bora molto forte sulla costa e con la possibilità di qualche pioggia sparsa e di qualche debole nevicata sul Carso e montagna. Le temperature complessivamente caleranno ancora di qualche grado e il freddo si farà sentire soprattutto in montagna, con zero termico sui 1000 metri circa. La depressione ci interesserà probabilmente fino a giovedì, poi si allontanerà verso est e ci saranno un paio di giorni con tempo migliore e aria più secca. Come sempre, vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. A Sant'Andrea il Purcit sulle Bree, proverbio notissimo che indica il giorno in cui si può iniziare la macellazione suina, ovvero mettere il maiale sul tavolaccio, la Bree. In alcune località da quel giorno sulla Bree inizia ad andarci anche l'Oc, ovvero l'Oca. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it, potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.